Non vi spazientite, vi prego, se resto in tema elettorale. Ma è solo in Italia, lo ammetterete anche voi, che dopo un confronto importante come quello di domenica scorsa, in presenza di risultati imprevisti, di un discreto sconquasso del quadro politico, si può passare una settimana, a discutere non delle elezioni in sé che sono state archiviate subito, ma di una trasmissione in cui ve si sono commentate. È bastata l'augusta in attesa presenza di Berlusconi in Rai 3 martedì sera per dirottare sull'argomento l'interesse dei commentatori in un profluvio di analisi, dissertazioni, articoli giornalisti, microfoni aperti, trasmissioni derivate che nell'insieme testimonia soprattutto dell'inguaribile autoreferenzialità del nostro sistema informativo. Forse varrebbe la pena a questo punto investire direttamente della presidenza del Consiglio il mite Giovanni Floris, lasciando che Prodi e Berlusconi gareggino tra di loro per la conduzione di Ballarò. Io a dire il vero, martedì sera avevo altro da fare e mi sono perduto l'evento. Sono stato costretto così a vedermelo il giorno dopo in registrata, nel timore di aver mancato chissà quale sviluppo fondamentale del dibattito ideologico in corso. E questo da un certo punto di vista mi metteva nelle condizioni ideali per coglierne tutte le sfumature, esente da quell'effetto sorpresa da cui sono stati spiazzati, pare, i telespettatori in diretta all'apparizione sul monitor delle rosse chiome del capo del governo. Invece non ho colto quasi niente. Il dibattito, a parte qualche battuta occasionale, mi è sembrato noiosissimo, anche perché con uno convinto di aver perso solo perché non si è impegnato abbastanza per vincere non si può dibattere più di tanto. E poi ero distratto. Ho passato quasi tutto il tempo a riflettere su quello che Sherlock Holmes avrebbe senza dubbio definito il mistero delle cravatte a pois. Lo avete notato, suppongo, anche voi. I convocati erano quattro: l'uomo di Arcore, appunto, poi D'Alema, Rutelli e poveretto il ministro Alemanno, la cui specialità è quella di smarcarsi dal berlusconismo puro, ma in quella circostanza non poteva proprio farlo e infatti è restato quasi sempre zitto. Beh, come non è, portavano tutti e quattro la stessa cravatta blu, presumibilmente di seta, e a pallini bianchi. Pallini un po' più discreti nel caso di Rutelli e di misura più cospicua per gli altri tre. E ancorché parecchi altri indumenti del genere avvenissero in studio, al collo di spettatori, guardia del corpo, portaborse vari, per cui immagino si tratti di un articolo largamente diffuso, la cosa è un po' dava da pensare. E non c'è niente di strano, direte voi. È un caso tipico in cui l'omogeneità malcelata dei nostri politici si lascia evidenziare per uno scherzo della sorte da un particolare esteriore. Frequentano costoro tutti lo stesso giro. Si occupano delle medesime cose, concordano sull'imperativo di tenere quanto più possibile fuori dai piedi eventuali terzi incomodi, si danno immancabilmente del tu perché non dovrebbero portare la stessa cravatta. Oltretutto, la scelta di un insieme cromatico ideologicamente neutro, come il blu a pallini bianchi, e si addice a un'occasione in cui è meglio non ostentare appartenenze troppo pronunciate. Solo i leghisti DOC ormai sono fedeli al colore di partito e nessuno si aspetta che D'Alema inalberi in diretta un tessuto rosso quercia, se esiste un rosso quercia, o Rutelli un motivo a margherite. E poi l'Italia è il paese della moda, e se la moda impone blu a pallini bianchi, che blu a pallini bianchi sia, e non stiamo a pensarci troppo. Tutto normale, dunque. Però resta un particolare su cui riflettere. Quei quattro, a pensarci, appartengono allo stesso ceto politico, certo, ma ci sono arrivati per vie abbastanza diverse. Berlusconi sappiamo tutti chi è, da dove viene. D'Alema è un figlio d'arte del vecchio PC e della Prima Repubblica, il che già configura due modelli antropologici piuttosto diversi. Rutelli, che Dio lo perdoni, viene dall'alternativismo degli anni 70, sia pure in versione soft pannelliana. E quanto ad Alemanno, non so nulla delle sue esperienze pregresse, ma ho mezzo sospetto che non riguardassero i partiti dell'arco costituzionale neanche i Boy Scout. L'omologazione di cui testimoniavano quei tagli di tessuto, dunque, non era tanto un dato di partenza, un marker esistenziale come tanti, quanto un punto d'arrivo. l'ostentazione orgogliosa di un bersaglio centrato, di un obiettivo raggiunto, magari a prezzo di qualche sforzo. Ma non per tutti, non per tutti. Da un punto di vista strettamente referenziale, non erano quelle cravatte tutte sullo stesso piano. Se attorno a 3 colli su 4 la loro presenza per un motivo o per l'altro strideva un po', attorno al 4 l'oggetto sembrava naturalissimo, come se chi lo esibiva non avesse mai portato in vita sua un altro modello. Era 2 pallini bianchi. Neutro sì, ma è anche uno degli accessori classici del doppio petto d'Armani, delle borse di cinghiale, dei vari parafernalia dell'imprenditorialità lombarda. È una cosa che sa di prima della scala di cena al Savini e di ricevimento in villa in Brianza. La sua diffusione, con un pizzico di malizia, potrebbe essere vista come una prova del fatto che i vari percorsi cui oggi come oggi si articola l'apprendistato politico in questo paese conducono comunque sempre a lui. Non rivela l'esistenza di un'omogeneità. Comunica, denuncia, un processo avanzato di berlusconizzazione. Vabbè, d'accordo, forse esagero, ma aspetto comunque con ansia la prossima apparizione televisiva di Prodi per controllare che cosa avrà al collo lui.